Accostatevi, o popoli, per udire. Nazioni, fate attenzione. Ascolti la terra e ciò che la riempie, il mondo e quanto esso produce. Perché il Signore si è adirato contro tutte le nazioni, si è sdegnato contro tutti i loro eserciti, li ha condannati all'anatema, li ha destinati al massacro. I loro trafitti sono stati gettati via, e dai loro cadaveri sale il fetore, del loro sangue i monti grondano. Si dissolve tutta l'armata del cielo. I cieli si arrotolano come un libro, tutte le loro schiere cadranno come care il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico. Sì, la mia spada si è inebriata nel cielo. Ecco, essa si abbatte contro Edom e contro il popolo che ho votato alla condanna. La spada del Signore è piena di sangue, è intrisa di adipe, del sangue di agnelli e di capri, del grasso delle viscere dei montoni, perché il Signore offre un sacrificio in Bozra, un grande massacro nella terra di Edom. Con essi cadono bisonti, giovenche insieme con tori. La loro terra gronda sangue e la loro polvere si impingua di adipe, perché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per il difensore di Sion. I suoi torrenti si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, il loro paese diventerà pece ardente. Né giorno né notte si estinguerà. Il suo fumo salirà eternamente. Rimarrà arido di generazione in generazione. Nessuno più vi passerà. L'occuperanno il pellicano e la civetta. Vi abiteranno il gufo ed il corvo. Il Signore stenderà su di esso la corda della solitudine e la livella del vuoto. Vi prenderanno dimora i satiri, ed i suoi nobili non vi saranno più. Non vi si proclameranno più i re, e tutti i suoi principi saranno annientati. Nei suoi palazzi cresceranno le spine, nelle sue fortezze ortiche e cardi. Esso diventerà dimora di sciacalli, riparo degli struzzi. Cani selvatici si incontreranno con le iene, ed i satiri si lanciano mutualmente l'appello. Ivi ancora abiterà Lilith, trovandovi il riposo. Qui vi si annidderà la vipera, deporrà le uova, le coverà, le farà schiudere nell'ombra. Là si raduneranno pure gli avvoltoi, nessuno perderà il suo compagno. Cercate nel libro del Signore e leggete. Nessuno di essi mancherà, perché la sua bocca l'ha comandato ed è il suo spirito che li raduna. Egli getterà per essi la sorte. La sua mano ha ripartito loro il paese con misura. Lo possiederanno per l'eternità. Vi abiteranno di generazione in generazione.